come fratelli per sempre. Sangue confuso nel sangue. Io giuro. Quattro minuti un'eclissi, la vita tinta di nero, semplice coccio di vetro, ma in un sentiero segreto che batta all'infinito, che batta all'infinito, che batta all'infinito, che batta all'infinito.